Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata, benvenuti, grazie per essere con noi. Qua in studio con me il nostro ospite del venerdì, dottor Franco Confalonieri, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Un saluto a Giorgio Mattei che regia la parte tecnica e come sempre a Laura Vanossi in redazione. Più o meno il tema del giorno della puntata con il dottor Franco Confalonieri potete intuirlo, immaginarlo, ma c'è il nostro sommario quindi non me lo voglio bruciare. Invece, dottor Confalonieri, lei invece può anticipare una domanda per i nostri ascoltatori alla quale leghiamo appunto il nostro consiglio di lettura di oggi. Dottore, a lei la parola. Sì. Una domanda semplice. È semplice, legata al tema della trasmissione, e secondo me mi piace esagerare addirittura doppia. Che cos'è l'offside e se esiste l'offside nel calcetto di cui parleremo oggi? Ecco, così mi ha bruciato il tema del nostro sommario, però ce ne sono altri, quindi lo ascoltiamo. Calcetto, una passione da vivere con il piede giusto. Obesity Day, un occhio alla bilancia per vincere in salute. Tutti in piazza a sostegno della ricerca. Allora, la domanda di oggi il dottor Franco Confalonieri l'ha fatta. Voi dovete mandare le vostre risposte al nostro indirizzo mail esserebenessere@radio24.it. La prima mail con la risposta naturalmente esatta, dovete mettere oltre che la risposta anche i numeri di telefono, i vostri recapiti, insomma in modo da potervi raggiungere, riceverà a casa un libro. E io direi invece di partire, calcetto, questo è il tema di oggi, l'avevamo già anticipato la scorsa settimane. Quindi se vi sentite registi illuminati oppure ancora come possiamo dire attaccanti dai piedi buoni, chiamateci, perché fino alle ore 12 daremo spazio alle vostre storie, alle vostre domande. Quindi è già attivo il nostro numero verde 800 24 0024, i nostri sms al 349 238 6666. Lei quale delle due figure preferirebbe? Un regista illuminato oppure un attaccante dal piede buono? Io la vedo più da regista. Un regista illuminato, anche perché è un pochino più statico, quindi più adatto alle mie caratteristiche. Allora anche voi da casa schieratevi. Senz'altro. Oggi però vogliamo sentire anche il parere delle nostre ascoltatrici. Ci sono quasi dei giorni fissi per il calcetto. Sì, il lunedì per esempio è il giorno classico del calcetto, qualche volta poi il sabato e la domenica capita il torneo, ma diciamo che le donne sono spesso le vittime di questo sport, di questa attività che peraltro ha tanti aspetti benefici. Vittime, magari siamo noi a mandarvi a giocare a calcetto, c'è anche questa possibilità. Vai pure. Chissà poi perché il lunedì. Ma il lunedì forse perché comunque nel calcetto c'è questa componente aggregativa che è estremamente importante, e soprattutto il calcetto aggrega al di fuori della famiglia. Noi abbiamo due grandi ambiti di riferimento, quello familiare e quello amicale, o quello dei colleghi di lavoro, e quindi venendo dal weekend che è il più delle volte dedicato alla famiglia, il lunedì stacchiamo e ci aggreghiamo in un contesto diverso, quello degli amici o quello dei colleghi di lavoro, e quindi tipicamente sono le giornate in cui ci sono più richieste, il lunedì e il martedì, per le giocate a calcetto. Quindi dopo un sabato e una domenica con la famiglia ci si sfoga. Questo io ho letto tra le sue righe anche queste. Senta, partiamo un po' dall'ABC, perché tutti dicono di sapere a calcetto, a sapere giocare a calcetto, però evidentemente qualche notizia, qualche informazione per prendere il calcetto col piede giusto è necessaria. Beh, indubbiamente è un'attività sportiva che ha dei lati positivi importanti. Primo fra tutto il suo potere di aggregazione, che è sicuramente utile e valido. Poi è facilmente praticabile, ha un costo basso perché il costo di un campo viene suddiviso tra 10 giocatori e non per esempio soltanto fra 2 o 4 come per il tennis. Non necessita di una preparazione specifica né di un'attrezzatura specifica, e sul piano della salute ha indubbiamente degli effetti positivi. Ha un effetto in termini di allenamento sull'apparato respiratorio e sull'apparato cardiovascolare, ha un minimo di effetto dimagrante, ha un effetto di tonificazione a livello muscolare, soprattutto degli arti inferiori, ha l'effetto di mantenere vivi e reattivi i sistemi neuromuscolari, quindi di prevenire almeno in parte questo decadimento progressivo che c'è proprio a livello di rapidità, velocità di reazione e capacità neuromuscolari. Indubbiamente c'è anche un rovescio della medaglia, perché è uno sport rischioso. perché è uno sport che si svolge basato fondamentalmente sulla velocità e sulla rapidità, e quindi ci sono infortuni legati proprio ai movimenti brevi e rapidi, e poi è uno sport di contatto, e quindi ci sono tutti quegli infortuni che possono essere legati a traumi da contatto. Infine, sì, è uno sport relativamente a rischio per chi soffre di patologie cardiovascolari, perché è uno sforzo intenso, breve, fatto spesso la sera, al freddo, perché il più delle volte si gioca all'aperto, e quindi ha una serie di fattori di rischio anche rispetto, per esempio, agli attacchi di angina piuttosto che di un vero e proprio infarto. È chiaro che sono rischi molto ridotti, ma però ci sono, quindi vale la pena di segnalarli. Quindi luce e ombre sul calcetto, cercheremo di vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Intanto vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, ma so che lei ci tiene a fare le domande ai nostri ascoltatori, io banalmente direi, vi ha dato molto, vi ha tolto qualcosa, 824 0024, ma lei che è un medico sportivo e di calcetto alla Salunga? Ancora più banalmente, calcetto più, calcetto meno, quindi per voi il rapporto col calcetto è stato positivo e gli date un bel più, o è stato negativo e gli date un bel meno? E possono chiamarci gli uomini così come le donne. Dategli un giudizio. Dategli un giudizio, mettetegli un voto. 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Oggi è l'Obesity Day, traduciamolo, perché ormai sì, tutte queste giornate usano una terminologia inglese, è la giornata di sensibilizzazione nazionale dedicata all'obesità. È un'iniziativa promossa da ADI, l'ADI è l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, e proprio grazie a questa iniziativa ci saranno ospedali aperti e visite gratuite in tutta Italia, soprattutto informazione. L'elenco dei centri è consultabile sul sito www.obesityday.org. Tema, cioè lo slogan, non rimbalzare da una taglia all'altra, fai centro. In linea con noi per fare centro, per aiutarle a farci fare centro, abbiamo il dottor Giuseppe Fatati, che è presidente dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. Dottore, bentornato, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, dottore, spesso ci si mette a dieta, si cala anche di una taglia, poi si riprende una vita normale, una dieta normale, si recupera con un pezzettino la taglia che si era persa. C'è un nome per definire questo passaggio continuo da una taglia all'altra, un po' l'effetto fisarmonica, la sindrome yo-yo. A voi medici non piace, ma è molto frequente, dottore. Sì, è sicuramente molto frequente. A noi non piace perché cambia in un qualche modo la composizione corporea e aumenta la presenza di grasso viscerale a livello addominale, nel senso aumenta quel grasso, quella pancetta, se vogliamo tradurla in termini più semplici, che in realtà dal punto di vista metabolico è molto dannosa e porta e favorisce l'insorgenza di malattie quali il diabete, l'ipertensione, la cardiopatia ischemica, e con un fenomeno che sta alla base, che è l'insulino resistenza, in un qualche modo potrebbe favorire anche la crescita di malattie neoplastiche, quindi malattie veramente molto gravi. Per tutti questi motivi non ci piace questa oscillazione, che in realtà, oltre a creare questo, qualche volta fa perdere anche massa magra e quindi crea più problemi di quelli che tenta di risolvere. Quindi, dottor Fatati, per assurdo meglio rimanere con i 3 o 4 chiletti in più piuttosto che scendere, poi aumentare e continuare a passare da una taglia all'altra? Ma sicuramente sì, nella vita bisogna sempre avere le idee chiare. Se ho deciso che e ho capito che il mio peso è eccessivo, è bene che mi dia un obiettivo raggiungibile e che è soprattutto poi sopportabile e mantenibile nel tempo. L'importante è la costanza, non è l'occasionalità. Certo, e questo spiega anche perché diete eccessivamente drastiche nel lungo periodo ci penalizzano, perché non si può mica continuare a mangiare per tutta la vita una foglia di insalata, giusto? Sicuramente sì, ci penalizzano e ci fanno recuperare molto di più, perché in realtà si abituano a consumare ancora di meno dal punto di vista di spese energetiche, e quindi tecnicamente poi quando riprendiamo a mangiare come mangiavamo prima, se riprendevamo le vecchie abitudini, ci accorgiamo che aumentiamo non solo del peso che abbiamo perduto, ma ogni volta qualcosa di più, e quindi se abbiamo un effetto così paradosso della dieta, che invece di farci soltanto dimagrire ci ha fatto anche un po' ingrassare. Dottore, in un mese quanto peso, quanti chili è ragionevole perdere per continuare poi a mantenere, no, questo peso forma? Allora, per un individuo medio il messaggio che deve passare è che è importante perdere qualcosa, però già un dimagrimento fra i 2 e 4 kg è un dimagrimento per noi importante e sostenibile, è un dimagrimento già che cambia l'assetto in senso positivo, l'assetto metabolico del soggetto, quindi mentre diciamo, l'individuo, il singolo ha l'impressione che perdere 2-3 kg sia una fatica inutile, per noi medici dal punto di vista metabolico è una fatica che paga molto, e riuscire a perdere questi quantitativi che sembrano limitati ma costantemente nel tempo in realtà dà un vantaggio e metabolico e di salute notevolissimo. Se stiamo a dieta e dopo 2 settimane l'ago della bilancia non scende, è una dieta sbagliata o che cosa può essere? No, io direi aspettiamo un attimo, perché normalmente ormai nessuno dà più il foglietto o solo la prescrizione alimentare, insieme c'è anche un po' di attività fisica. In una prima fase potrebbe aumentare un po' la massa magra, il tessuto muscolare ha un peso comunque diverso dal tessuto adiposo, quindi si può dimagrire subito, oppure ci può essere un dimagrimento a scalino, per 2 settimane non dimagrisco e poi prendo a scendere. L'importante, a mio giudizio, è almeno avere la costanza di fare delle modificazioni sostanziali a quello che facevamo prima per un periodo medio-lungo. Quindi guardiamolo sull'1 o 2 mesi, le 2 settimane o la settimana. Non vogliono dire nulla, non sono indicative. Dottor Fatati, chiudiamo con un consiglio per i genitori in ascolto con bambini un po' morbidi, sovrappeso. Stiamo concentrando troppa attenzione su quello che i nostri bambini si trovano a tavola e dimentichiamo forse che avrebbero bisogno invece di muoversi di più. Ci sono mamme ossessionate dalle calorie, mamme invece che sono ancora del vecchio stampo, diamogli da mangiare così sta in salute. Due poli che forse potrebbero essere messi d'accordo, quindi con un concetto invece molto, molto semplice, facciamoli giocare, facciamoli muovere. Dottore. Perfettamente d'accordo, se abbiamo un problema grande in questo momento è che i nostri bambini non sanno usare bene le proprie gambe. Sono usciti proprio ieri i dati del Ministero della Salute che ci dicono, al di là di quello che ci aspettavamo, che un bambino su 3 è in sovrappeso, ma ci dicono anche un'altra cosa, che un bambino su 2 ha il televisore in camera. Io vorrei sapere quanti bambini hanno una palla, un gioco di movimento in camera. Spostiamo l'attenzione dalla caloria per la caloria nel bambino all'attenzione sul movimento. Il bambino deve correre, deve giocare, deve muoversi, deve avere un dispendio energetico. In questo certamente un'alimentazione equilibrata ci aiuta, ma da sola serve veramente a poco. Dottore, la ringrazio, le auguro una buona giornata, ci sentiamo presto. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Pronto soccorso. Calcetto, questo è il tema di oggi, 824 0024, abbiamo messo sulla bilancia i pro e i contro. Ad esempio, dottore, io credo che sia un sport che è particolarmente pericoloso per le persone che si improvvisano. Lei però spesso ci dice usate la gradualità, lentamente. A calcetto però o uno gioca o non gioca, non è che può mettersi lì e fare finta di tirare un calcio al pallone e poi ritirarsi. Come si fa? Sì, direi che questo è il grosso rischio di questa attività, nel senso che molto spesso capita anche a chi non fa nulla di fare la partita a calcetto, proprio perché è divertente, proprio perché si organizza facilmente. Quindi qui il concetto di gradualità, a me così caro, viene completamente abbandonato. E qua le problematiche sono soprattutto di due tipi, quelle legate a un impegno muscolare su muscoli, articolazioni e tendini poco allenati, improvviso, intenso, e quindi l'incidente. Da questo punto di vista sarebbe utile prima della partita fare almeno 10-12 minuti di riscaldamento, di attivazione, di allungamento, anche se può sembrarci inutile perché riduce questi rischi. Poi indubbiamente c'è il problema di non saper gestire lo scontro, il contatto fisico. È vero che nel calcetto, per esempio, rispetto al calcio i contatti fisici sono relativamente meno, però io devo essere capace di contrastare, capace di scontrarmi con un altro giocatore. Se non ho mai giocato rischio molto di più di farmi male. Quindi da questo punto di vista forse i problemi sono ancora maggiori per chi non ha mai giocato a pallone rispetto a quelli che magari non giocano più da tempo ma hanno una memoria che fa in modo che corrano meno rischi proprio perché sono capaci di scontrarsi e di cadere. Voglio leggervi un messaggio che ci scrive Andrea, massoterapista da Scandicci. Calcetto, voto 10. Non so giocare, ma so curare i vari infortuni che nascono nel cinquantenne che rincorre il trentenne. E continuiamo a parlare di calcetto, non di, di infortuni, ma di come viene un po' vissuto il calcetto. C'è un libro molto interessante, si intitola Amore, bugie e calcetto, e scritto da Fabio Bonifaci, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Edito da Mondadori, mi stavo dimenticando, ma naturalmente nel suo libro il calcetto è un po' una metafora. Sì, infatti questo è un romanzo che voleva parlare della società di oggi, di come siamo, del costume, di come sono gli uomini e le donne. Il calcetto viene usato come metafora. Io sono partito da un'idea che era una frase che diceva sempre il mio vecchio allenatore di calcio, di quando da giovane giocavo abbastanza seriamente. E lui diceva sempre, aveva questa metafora, in campo come nella vita. Per noi era molto impegnativo, perché voleva dire che il comportamento in campo ci svelava come esseri umani. Sì, se uno in campo si comportava da vigliacco... Esatto, aveva paura poi di essere tale anche nella vita. Quando hai 15 anni e ti stai formando, sono dubbi che ti vengono, no? Ecco, poi io ho smesso di giocare seriamente, ho giocato come tanti a calcetto per molti anni con gli amici e ho visto però che questo criterio in campo come nella vita funziona molto. In che senso? Spesso il carattere di una persona si vede molto bene sul campo da calcio, si vede se uno è altruista e gioca per il gruppo, oppure se fai il Venezia, come si dice a Milano, cioè dribbla solo per fare bella figura. Come si dice il Venezia? Il Venezia, sì. Che è anche il nome di uno dei personaggi che infatti sì, gioca a calcio come fosse solo in campo e cerca solo di dribblare più avversari possibile. E quindi si potrebbe dire, o meglio, osservare la persona che gioca a calcetto per capire qualche cosa in più, non dico del suo carattere, ma del momento della vita che sta attraversando. Sì, di tutte e due, sia del carattere sia del momento. Infatti il libro gioca molto su questo, perché racconta le vicende private di questi personaggi, i loro problemi sentimentali, i loro problemi lavorativi, e tutte queste cose si incrociano con le vicende della squadra. Ad esempio c'è uno dei giocatori che è soprannominato Precisetti, è un giovane che è un po' anziano dentro e gioca in modo molto preciso, non azzarda mai, non tenta mai colpi di fantasia, che a un certo punto ha una specie di rivoluzione nella sua vita privata, adesso non la stiamo a raccontare, e questa si riflette sul modo di giocare in campo, diventa un giocatore più fantasioso e quindi non è più adatto a giocare in difesa, lo devono spostare in attacco. Ecco, questi cambiamenti accadono a vari personaggi, quindi tutte le vicende private si incrociano con quelle della squadra. I miracoli del calcetto, quindi, possiamo dire in qualche modo. Dottor Confalonieri vuole intervenire? Sì, volevo aggiungere una cosa a conferma di questa intuizione intelligentissima di Fabio Bonifaci. Io per esempio con le squadre agonistiche di vari sport che seguo, quello che faccio all'inizio di ogni anno è proprio organizzare una partita di calcetto per vedere i comportamenti dei vari atleti, e in questo modo ho delle indicazioni molto precise rispetto alle dinamiche di squadra, anche rispetto ad atleti che conosco poco e che poi faranno altri sport. Ed un consiglio che do spesso quando faccio i miei interventi nelle scuole, ai maestri e ai professori: iniziate l'anno con una partita di calcetto. In un'ora, un'ora e mezza conoscerete la vostra classe molto di più che in settimane di aula. Ed è anche un modo per dare un po' di importanza all'attività motoria. In modo informale, mi hanno raccontato in più occasioni amici che hanno responsabilità, gestiscono piccole aziende, devono scegliere collaboratori, che tante volte il modo in cui le persone, i giovani in prova o che sono collaboratori, vengono invitati alla partita di calcetto e il modo in cui si comportano in campo influisce nella scelta se assumerli definitivamente o meno. Quindi possiamo dire, se il vostro capo vi invita, appena assunto, vi invita a giocare a calcetto, voi dite di no, eh? Dite di no. E soprattutto se invece nessuno ve lo dice, guardate, si dice bordi del campo lo stesso. Esatto. Se c'è qualcuno è perché potrebbero essere delle spie. Il libro da cui è stato tratto un film sta molto dalla parte delle donne e in qualche modo vuol fare capire a noi donne perché gli uomini amano tanto il calcetto. Sì, sì, infatti è dalla parte delle donne perché, vabbè, raccontando le vite private di questi calciatori si viene a scoprire che in realtà in questo tempio maschile che è lo spogliatoio del calcetto, alla fine praticamente comandano le donne, nel senso che poi alla fine anche lì, in questo luogo, in questa oasi in cui i maschi si trovano soli, tutto quello che accade loro a casa influenza enormemente i rapporti. Ma soprattutto volevo anche cercare di far capire alle donne questo mistero, perché io mi rendo conto, per le donne è incomprensibile, c'è una specie di buco nero, sì, che al giovedì o al lunedì in genere inghiotte milioni di maschi che spariscono, sì, con la loro borsa, e non si riesce a capire dal punto di vista femminile. Noi ci organizziamo, mai, comunque, bello, signor Bonifacci. A 40 anni a sudare come matti al gelo per poi magari farsi pure male. Perché allora? Ma io, svegliamolo prima dei mercati. Spiega anche un personaggio che una sera, un personaggio del libro, una sera, sì, c'è una semifinale molto importante, la moglie non può tenere i figli e si porta la bambina al campo per poter giocare. Sì. E questa bambina resta impressionata da alcuni scontri fisici in cui la gente rimane a terra e vuole andare a casa dicendo: qui siete cattivi, vi picchiate, non ci, sì, vengo più. Allora il padre, che vuole continuare la partita, quindi deve convincere la bambina a stare lì, le racconta una favola a Porto Campo in panchina. E la favola è questa: vedi Matilde, noi una volta i papà vivevano nelle caverne, per mangiare dovevano fare la lotta, sì, dovevano dare le bastonate agli animali, lottare fra loro per acquistare, per conquistare le cose che servivano. Sì. Adesso la lotta non si fa più, i papà vivono negli uffici con l'aria condizionata, il riscaldamento, stanno bene, ma gli è rimasto un po' voglia di fare la lotta. E quindi al giovedì vengono qua, dove un po' si picchiano, si scontrano e poi si abbracciano. Però così sono tutti d'accordo, è solo un gioco che appaga quell'antico desiderio di fare la lotta che all'uomo moderno non serve più assolutamente a niente. Allora, prendiamoci questa storia, potrebbe essere uno spunto anche per noi donne. Fabio Bonifacci, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e una buona partita di calcetto. Calcetto, questo è il tema di oggi, 824 0024, e chiediamo anche alle signore in ascolto che cosa fate, come organizzate la vostra serata, dato che prima abbiamo sentito uno scrittore che al calcetto ha dedicato un romanzo. Cosa fate, come organizzate la vostra serata quando il vostro marito, il vostro compagno, il vostro fidanzato prende la borsa e va a giocare e poi magari in campo fa fatica, dottor Confalonieri, perché certo, il campo è una bella prova, eh? Un'altra domanda che volevamo fare era proprio questa. Ci sono due grandi problemi per chi gioca calcetto e magari improvvisa. Il primo è il fiato. Quindi vi ritrovate dopo pochi minuti col cuore in gola, senza fiato, piegati in due, oppure siete vittime dell'altro grande problema del calcetto, avete dolori lancinanti a livello muscolare, per cui dopo un po' che giocate non vi potete più muovere e magari il giorno dopo ancora meno, perché i vostri muscoli urlano dal dolore. Raccontatecelo allora, il nostro numero verde è sempre a vostra disposizione. Abbiamo in linea con noi Claudio che ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per lo spazio. Beh, innanzitutto volevo darvi un'informazione. Il lunedì è il giorno più scelto perché ormai negli altri giorni ci sono sempre le coppe, quindi chi gioca a calcetto sceglie lunedì, perché martedì, mercoledì, giovedì ci sono sempre le partite, quindi ci piace giocarlo e vederlo il calcio. Il dottore ha detto bene, comunque ci vuole anche per il calcetto una certa preparazione. Sempre, sì? Un po'. Lei quando gioca, Claudio, scusi, quindi sempre al lunedì? Quasi sempre lunedì, qualche volta la domenica, tra la domenica mattina tra amici. Senta, ma lei è un atleta oppure ogni tanto il fiato corto o qualche dolorino post partita o durante la partita, così le facciamo già un piccolo test in diretta, ma mi sembra dalla voce che lei sul calcetto la sappia lunga. Beh sì, sono un po' di anni che l'ho praticato, adesso lo pratico di meno perché un po' per l'età, un po' per gli acciacchi. Diciamo che il fiato e i dolori si sentono sempre quando si è stati per un po' di tempo fermi e quindi si manca di allenamento. Sì. Volevo aggiungere che il calcetto dal regolamento non prevede nessun contatto fisico, quindi se lo si gioca già a livelli medi, diciamo, è già lo scontro meno, non c'è. Meno rischioso del calcio. Quindi metterebbe questo un po' in discussione la teoria del nostro amico scrittore che diceva un po' lo scontro dell'uomo della caverna. Insomma, si è evoluto. Claudio vuole aggiungere qualcosa? Non ci ha detto se lei ha male o non ha male, ma mi sembra allenato. Claudio? Sì. L'ultima cosa è un suggerimento. Se per chi lo può praticare, anche il calcio a sette è molto bello. È una via di mezzo tra il calcio e il calcetto e prevede meno scatti brevi, più spazio ed è divertente, molto divertente. Allora, Claudio suggerisce il calcio a 7, per chi ha il fiato un po' corto prende ma fiato. Ma da un punto di vista degli effetti, in effetti, scusate la ripetizione, è la cosa migliore, perché non ci sono meno controindicazioni sia rispetto al calcio sia rispetto al calcio a 5. Il problema è che ci sono pochissimi campi. È vero che nel calcetto non è previsto lo scontro, però è altrettanto vero che spesso non si è allenati, le dimensioni del campo sono piccole e quindi gli scontri ci sono purtroppo spesso e volentieri. Andiamo a Linda che ci chiama da Treviso. Linda, buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Io volevo portare una testimonianza, la mia testimonianza. Io sono una sorella di un arbitro di calcio a 5. Sì. E mi è capitato molto spesso di andare a vederlo, sono di fargli compagnia, quindi di andare a vedere tutta Italia. E quindi volevo fare un appello a tutte le donne di andare a vedere, di andare a supportare i ragazzi, i fidanzati, i mariti. Quando giocano a calcetto. Senta, esatto. Linda, io le devo dire che il dottor Confalonieri ha subito fatto una faccia terrorizzata solo all'idea di essere... Ma lui penso che... Dottor Confalonieri, lei a calcetto non penso che giochi. Ogni tanto sì. Vabbè, invece ogni tanto sì, però non vorrebbe essere accompagnato. Quindi ho visto da quando Linda raccontava, lei ha avuto un attimo di paura. Linda, non so perché, non voglio indagare, ma penso che il suggerimento di Linda sia un buon suggerimento. Possiamo seguire anche perché Linda dice che non è così noioso come noi pensiamo. Linda? No, è molto più tecnico, molto più suggestivo sicuramente del calcio a 11. Ci sono molti meno tempi morti, anche perché comunque il tempo viene sempre fermato ogni volta, quindi è un tempo effettivo. E quindi è molto più dinamico rispetto al calcio a 11, ci sono tempi molto più lunghi, tempi molto più morti, insomma. Accompagnato era un modo di dire. Certo, certo, ma è il dottor Confalonieri che si vede che, insomma, non lo so, non voglio, Linda, noi non lo accompagniamo, andiamo a vedere altri. Grazie Linda da Treviso. Allora, il soffio al cuore accorcia il fiato e quindi... Sto leggendo un messaggio di Pino, dottor Confalonieri, e quindi, come a me, viene subito il fiatone dopo un po' di sforzo? Può esserci una relazione tra soffio al cuore e fiato corto? Assolutamente no. E può essere un no. problema? No. Il soffio al cuore è una patologia cardiaca che non c'entra nulla con la carenza di fiato, che può essere benigno e quindi non essere controindicazione alla pratica del calcetto, a rischio e quindi costituire controindicazione. Il fiato corto è tipico di chi non è allenato ed è particolarmente significativa questa sensazione all'inizio dello sforzo, dopo 10-15 minuti. Poi se si ha la capacità di continuare, l'organismo si adatta e se magari dopo 10 minuti abbiamo l'impressione che non arriveremo mai alla fine della partita, invece ci arriveremo più facilmente di quanto pensassimo. È proprio tipicamente una problematica che abbiamo all'inizio dell'attività se non siamo allenati. Mentre per i dolori, dottor Confalonieri? I dolori sono legati a uno scarso allenamento e a una mancanza di allungamento muscolare e di riscaldamento prima. Sono legati alle micro lesioni muscolari, non sono un grosso problema, passano nel giro di un giorno o due e rappresentano un adattamento progressivo del muscolo allo sforzo. In linea con noi abbiamo Roberto da Milano. Roberto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Roberto, allora, scusi, prima di andare alla sua domanda, voglio salutare anche il prossimo ospite che è venuto a trovarci. Infatti abbiamo raggiunto al telefono il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno Nicoletta. Da lei si viene quando qualcosa è andato male? Purtroppo sì, purtroppo è divertente giocare, ma purtroppo ci sono gli infortuni. Allora, dobbiamo tenere presente che le casistiche dicono che circa un 10% delle persone che giocano si fanno male. Cioè, questo va messo un po' in conto. Il diciamo, 10%. No? Roberto, da Milano, lei rientra nel 10 o nel 90? Perfetto, no, io rientro nel 10%. Allora, la mia testimonianza veloce è questa. Io ho sempre giocato a calcio e a calcetto. Sì. A gennaio ho avuto uno strappo in una partita. Sì. Con ciò sono stato fermo 7 mesi, poi ho ripreso ad allenarmi maniera abbastanza proficua. Dopodiché, alla prima partita che ho rifatto, dopo un minuto di gioco neanche, mi sono fatto un ginocchio e lesionato i legamenti. Adesso sono qua in attesa di poter riprendere a giocare a calcetto. Ancora, Roberto. Ancora. Ma la sua mamma non le dice stai a casa. Roberto, stai a casa. Sentiamo che... cosa che mi dico. Vero. Sentiamo il dottor Respizzi. Ma forse, dottor Respizzi... Sì. Rompiamo la risposta in due, perché noi abbiamo anche le informazioni sul traffico. Prima parte della risposta. Dunque, io volevo proprio parlare, senza aver sentito Roberto, dei problemi muscolari, che sono una cosa molto tipica, perché le persone che giocano calcetto solitamente non sono preparate, cioè sono gli amici che si trovano e che fanno queste partite più che altro per passione a livello amatoriale. E naturalmente arrivano a queste partite con molta foga, con molto desiderio, con molta voglia, ma non un'adeguata preparazione fisica. Sentivo prima anche con Ferronieri che ne parlava. Cioè, è chiaro che se uno non ha conoscenze, come giusto, come normale che sia, una persona qualunque, di cosa deve fare nel riscaldamento, cosa deve fare per potenziare la muscolatura, è facile che i muscoli abbiano una lesione. Allora, quello, per non finire, quello che ha avuto Roberto. Che tipo di lesione era? Allora, per non finire nella condizione di Roberto, e quindi giochiamo d'anticipo, tra poco, subito dopo le informazioni sul traffico, andiamo a chiedere al dottor Respizzi, al dottor Confalonieri, come ci si prepara, e poi soprattutto nel caso, facendo gli scongiuri, come si affronta, come nel caso di Roberto, un incidente sul calcetto, perché poi la voglia di tornare in campo c'è, e quindi nonostante gli inviti ad appendere le scarpette al chiodo si torna in campo. E siamo tornati insieme, ma prima di continuare a parlare di calcetto, adesso è il momento di dare la risposta a dottor Confalonieri. La domanda era: esiste? Che cos'è l'offside e se esiste nel calcetto? L'offside è il fuorigioco, quello che normalmente chiamiamo fuorigioco, e non esiste nel calcetto il fuorigioco, quindi si può segnare anche se si è al di là di tutti o i difensori avversari. Quindi la risposta esatta era fuorigioco, nel calcetto no, o esatto. Non esiste. E la prima mail con la risposta esatta arrivata al nostro indirizzo di posta elettronica esserebenessere@radio24.it è quella di Marco, che riceverà a casa, grazie all'iniziativa di Internet Book Shop, un libro dal titolo Yoga per l'ufficio, 30 esercizi in giacca e cravatta, Corbaccio editore. In collaborazione con IBS.it. Dottor Respizzi, andiamo con le regole. Allora, le regole sono misurarsi l'estensibilità dei muscoli, che vuol dire provare a fare ad esempio una flessione verso l'avanti con il tronco e vedere quanto distanza si arriva dalla punta dei piedi. Se si è molto lontani, si ha dei muscoli molto corti, significa che vanno allungati e fatto lo stretching, perché sennò il rischio di una rottura muscolare è molto elevato. Questo è un aspetto. Quindi misurarsi l'elasticità. Seconda cosa, andare a iscriversi a una palestra e fare degli esercizi di rinforzo della muscolatura degli arti inferiori, di potenziamento delle cosce sostanzialmente. Sì. Queste sono le due cose indispensabili da fare, ma trovo che sia ancora più indispensabile pensare anche al rischio di recidiva. Questa persona che è stata ferma 7 mesi, che ha parlato prima, che è stata ferma 7 mesi, è un tempo lunghissimo per una lesione muscolare, quindi probabilmente non è stato fatto un percorso riabilitativo adeguato dopo la lesione, quindi il rischio di avere un nuovo infortunio è ancora più elevato. Sostanzialmente non bisogna improvvisare niente, Nicoletta, bisogna proprio stare molto attenti, misurarsi, capire com'è il proprio corpo e da lì, insieme a un preparatore atletico, costruirsi una struttura muscolare in grado di affrontare una partita di calcetto che è molto impegnativa. Lei gioca, quindi non soltanto dottor... l'apparato cardiovascolare, non solo il cuore ma anche il muscolo. Senta, dottor Respizzi, lei gioca o no? No, ci penso neanche. Non ci penso neanche. Dottor Confalonieri? Io gioco ogni tanto, ma perché li ho lì a disposizione, qualche volta mi trascinano. Sì, e non faccio nulla di quello che dovrei fare, perché come sempre, medico cura te stesso, sono pessimo nella gestione. Però di la verità, tiri indietro la gamba. Sì, faccio il regista arretrato ed evito ogni contatto ed ogni sforzo eccessivo. Allora, io direi, possiamo rispondere a tamburo battente, rapide con le domande e a testa vi sentite gli ascoltatori. Adolfo da Bari, buongiorno, venga alla domanda. Buongiorno, la domanda è questa. Allora, praticamente un anno e mezzo fa circa ho preso una distorsione alla caviglia, quindi dopo diciamo un mesetto e mezzo che era gonfia, si è sgonfiata, diciamo, piano piano ho ripreso a fare footing e dopo qualche mese ho iniziato di nuovo a giocare senza nessun problema. Ora praticamente Adolfo, dobbiamo stringere, sì. Sì, ieri si è ripresentato il dolore. Volevo sapere se mi consigliano i dottori una fasciatura durante la partita, se mettere pomate o ghiaccio dopo o e stare se a ci sono casa. Degli esercizi per rinforzare. Ecco, non ha neanche ipotizzato l'idea di stare a casa. Dottor Respizzi, rapidamente una domanda che poi andiamo da Marco. Assolutamente. Dunque, io direi che bisogna prima capire che tipo di lesione si è fatto, così non si può assolutamente dire niente. Ha sottovalutato un evento estremamente frequente che è la famosa storta della caviglia. Sì. Però se non si sa quali legamenti si sono lesionati nel primo episodio, è impossibile anche prescrivere un bendaggio di un certo tipo o una cavigliera di un certo tipo. Quindi io consiglierei alla persona di fare una diagnosi corretta con degli esami, tipo un'ecografia, tipo una risonanza magnetica della caviglia, se no si rischia veramente di improvvisare e di ricadere ancora una volta in maniera abbastanza purtroppo ingenua in un nuovo infortunio. Dottor Respizzi, questa è una regola che va, è una regola generale. Se vi fate male, cercate di capire che cosa è successo per evitare passi falsi, in questo caso calcetti falsi. Esatto. Dottor Confalonieri, che battuta. Allora, tocca a lei. Aggiunga perché io Marco. Sì, molto rapidamente, importantissimo abbinare il calcetto, che il più delle volte si pratica una volta alla settimana, o con la palestra, o comunque con un'attività fisica di resistenza come la corsa o il ciclismo, che ci consentono di fare un'ottima prevenzione degli infortuni. Andiamo a Marco da Milano. Marco, sì, buongiorno. Buongiorno, che succede? Anche lei si è fatto male o no? Sì, io mi sono fatto male un anno e mezzo fa al crociato anteriore destro più due menischi giocando a calcetto. Non si è risparmiato, non si è fatto mancare nulla, Marco. No, adesso ho ripreso a giocare a 11, però volevo chiedere una cosa. Sì. Ritornando a giocare a calcetto, potrei avere dei problemi o no? Ma è stato operato? È stato operato? Sì, è stato operato, sì. Di crociato, di ricostruzione del crociato? Sì, mi hanno ricostruito il crociato e i due menischi. Uno me l'hanno, mi sembra, pulito del tutto, l'altro non del tutto. Insomma, no. Marco è stato rimesso a nuovo. È perfetto, se la riabilitazione è stata fatta bene non c'è nessun rischio particolare. Sostanzialmente il suo ginocchio è ritornato a condizioni che sono equivalenti a un ginocchio sano. Quindi al rischio che hanno tutte le persone di giocare, insomma. La condizione indispensabile è questa: capire l'intervento è stato fatto ad arte e altrettanto ad arte deve essere stata fatta la riabilitazione. Dottor Confalonieri, un saluto, un messaggio per chiudere, che così salutiamo brevissimo, anche il dottor Respizzi e andiamo in piazza. Stiamo attenti soprattutto all'ultima fase della riabilitazione, la rimessa in forma. Non è la stessa cosa avere un ginocchio, una caviglia pronti per la vita di relazione o pronti per fare sport e quindi giocare a calcetto. Non trascuriamo l'ultimo passaggio. L'ultimo passaggio. E allora io saluto il dottor Franco Confalonieri. Grazie, per l'attenzione. Il dottor Stefano Respizzi, grazie per i consigli preziosi. Buona giornata. Anzi, dottor Confalonieri, lei si fermi qui, tanto in studio. Domani e domenica torna in 3.000 piazze italiane Una Mela per la Vita, che è l'iniziativa di solidarietà promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, proprio per sostenere la ricerca scientifica e potenziare i servizi sanitari e sociali per le persone malate. In Italia una persona ogni 4 ore riceve una diagnosi di sclerosi multipla. In linea con noi abbiamo il presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, il professor Mario Alberto Battaglia. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, il tempo a nostra disposizione è poco, abbiamo un minuto per invitare i nostri amici da casa a investire nella ricerca. Ricordiamo che la sclerosi multipla è la principale causa di disabilità tra i giovani adulti dopo gli incidenti stradali, intanto per inquadrarla. Però ci sono delle prospettive interessanti, alcune proprio emergono dal Congresso Mondiale di Montreal, che ha evidenziato che ci sono molte sostanze allo studio. Molte sostanze allo studio che cambieranno lo scenario, perché già oggi riusciamo a rallentare la progressione, ma le sostanze allo studio che arriveranno le prime nel 2010 all'utilizzo da parte del paziente, sono farmaci che riusciranno a bloccare l'evoluzione della malattia. Tra l'altro sono anche somministrabili oralmente, almeno alcuni, sì. E questo faciliterà la qualità di vita della persona. Andiamo alle cellule staminali, al progetto per le cellule staminali. Che cosa c'è di disponibile oggi? A che punto siete arrivati? Noi stiamo dedicando la ricerca sicuramente a capire ancora meglio i meccanismi di base della lesione, ma attraverso lo studio con le cellule staminali adulte si sta valutando la possibilità, sia con le neurali che con le mesenchimali, di cambiare l'ambiente interno della lesione. Questo facilita anche dei processi naturali di riparazione, e questo per arrivare ovviamente al trapianto sull'uomo di queste cellule, cosa che sarà sicuramente possibile a livello sperimentale dal prossimo anno. Oltretutto diventa per noi importante nella ricerca scientifica capire anche i fattori scatenanti, certo. E quindi le ricerche epidemiologiche che noi finanziamo, come finanziamo il progetto staminale nell'uomo, sono importanti. Sono importanti e bisogna continuare a investire nella ricerca. Sul sito dell'AISM, le piazze, professor Battaglia, io la ringrazio e le auguro una buona giornata. Grazie a voi e a tutti quelli che ci sostengono. Dottor Confalonieri, il tempo nostro è terminato. Un saluto da Nicoletta Carbone, vi aspetta a questa casa, non è un albergo, a domani. Grazie e buona giornata.